Capitolo 17. Avendo pensato Davide di edificare una casa al Signore, è promesso a lui un figliuolo, il quale la edificherà, per la qual cosa Davide rende grazie a Dio, celebrando la sua bontà verso di sé. Davide, essendo fermo in sua casa, disse a Natan profeta: ecco, che io abito in una casa di cedro, e l'arca del testamento del Signore sta sotto le pelli. E Natan disse a Davide: fa tutto quello che il cuor ti ispira, peroché il Signore è con te. Ma quella stessa notte Dio parlò a Natan, e disse: va, e di a Davide mio servo, queste cose dice il Signore: tu non edificherai la casa di mia abitazione. Impero che io non ho mai avuto casa dal dì in cui trassi Israele, fuor dell'Egitto, sino a questo giorno, ma andai sempre cangiando il luogo di mia residenza, e standomi sotto una tenda con tutto Israele. O io parlato giammai ad alcuno dei giudici a Israele, ai quali diedi incombenza di governare il mio popolo, e gli ho io detto: perché non mi avete voi fatta una casa di cedro? Adesso adunque tu dirai a Davide mio servo: queste cose dice il Signore degli eserciti, io ti elessi, allorché tu menavi al pascolo il gregge, per farti condottiere del popol mio di Israele. E sono stato con te in tutti i tuoi passi, e ho distrutti tutti i tuoi nemici dinanzi a te, e ti ho dato rinomanza quale può averla uno dei grandi, che son famosi sulla terra. E io ho assegnato abitazione al mio popolo di Israele, ivi egli è piantato, e vi resterà, e non sarà né staccato mai più, e i figliuoli d'iniquità non lo opprimeranno, come una volta. Da quel tempo, in cui io diedi dei giudici al popol mio di Israele, e umiliai tutti i suoi nemici. Io adunque ti fo da sapere, che il Signore fonderà stabile la tua casa. E quando, compiuti i tuoi giorni, tu sarai andato a riunirti co' padri tuoi, Dio farà sorgere dopo di te uno di tua stirpe, il quale sarà dei tuoi discendenti, e darò a lui un regno perenne. Egli mi edificherà una casa, e io farò stabile il suo trono in eterno. Io sarògli padre, ed egli sarà mio figliuolo, e non sottrarrò a lui la mia misericordia, come la sottrassi a colui che fu prima di te. E io gli darò il governo della mia casa, e del mio regno in eterno, e immobile sarà il suo trono in perpetuo. Natan espose a Davide tutte queste parole, e tutta questa visione. Ed essendo il re Davide andato dinanzi al Signore, e postosi a sedere, disse: chi son io, o Signore Dio, e che è la mia casa, onde tu dovessi far cose tali per me? Ma questo è paruto ancor poco a te, e per questo hai parlato intorno alla casa del tuo servo, anche pei tempi a venire, e mi hai renduto stimabile sopra tutti gli uomini, Signore Dio. Che può egli chiedere di più Davide, avendo tu glorificato a tal segno il tuo servo, e mostratogli il tuo affetto? Signore, tu per amor del tuo servo, secondo il tuo beneplacito, hai agito con tanta magnificenza, e hai voluto che fossero note a lui tutte queste meraviglie. Signore, non abbi simile a te, né altro Dio vi è fuori di te tra tutti quelli dei quali abbiam sentito parlare. Peroché qual altro popolo è egli come il tuo d'Israele, nazione unica sopra la terra, per cui liberare si mosse Dio, e per farla suo popolo, discacciando con la sua possanza, e co terrori le genti dinanzi a questo popolo liberato da lui dall'Egitto. E per tuo popolo eleggesti in sempiterno Israele, e tu, Signore, divenisti suo Dio. Adesso adunque, o Signore, confermata sia in perpetuo la parola annunziata da te riguardo al tuo servo, e riguardo alla sua casa, e fa tu quello che hai detto, e ne segua l'effetto, affinché sia magnificato il tuo nome in perpetuo, e si dica: il Signore degli eserciti, egli è il Dio di Israele, e la casa di David suo servo si mantiene dinanzi a lui. Peroché tu, o Signore Dio mio, hai rivelato al tuo servo di volere fondare la sua casa, e per questo il tuo servo ha avuta fidanza di fare questa preghiera dinanzi a te. Adesso adunque, o Signore, tu sei Dio, e hai annunziati favori sì grandi al tuo servo, e hai principiato a benedire la casa del servo tuo, affinché ella si manotenga per sempre dinanzi a te, perocché benedicendola tu, o Signore, sarai la benedetta in perpetuo. Note, egli ha assegnato abitazione al mio popolo Ec. Nella terra di Shanaan, donde ho sterminati gli antichi abitatori. Ivi egli è piantato, e vi resterà. Promessa condizionale, come lo furono quelle fatte su tal proposito allo stesso popolo per bocca di Mosè, delle quali non goderono l'effetto gli ebrei, quando si ritirarono da Dio, e mancarono di fedeltà verso di lui. Vers